La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 53 secondi in questo martedì 24 febbraio in diretta agli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e vi fa subito una domanda che è relativa all'argomento del giorno, che approfondiremo con due ospiti che ne sanno molto più di me su questo argomento. Però la domanda è una domanda, per così dire, a pelle, che faccio a ciascuno di voi. Se ci vuole telefonare all'800 24 00 24 o mandarci la sua opinione al 349 238 6666, e che in realtà è una domanda legittima per qualunque cittadino italiano, a prescindere da quanto poi tecnicamente ne sa o è appassionato alle questioni di politica internazionale, agli interessi del nostro paese, a quello che succede nel Mediterraneo, agli equilibri militari e così via. La domanda è molto semplice. Visto che ricordate che cosa è accaduto nel 2011, quando francesi e britannici, e poi anche gli americani, ma soprattutto i francesi e britannici, accelerarono sull'intervento in Libia, e poi quello che è successo fino all'eliminazione di Gheddafi e alla caduta successiva, però visto che dopo l'azione militare una operazione di costruzione, ricostruzione di una qualunque entità statuale in Libia è mancata, quello che è avvenuto, si è determinato come conseguenza, è stata la consegna della Libia a una pluralità di fazioni e, come sapete, da un bel po' di tempo ha una presenza in crescita dell'ISIS o Daesh, che dir si voglia, cioè del califfato, che viene colpito duramente in Siria e in Iraq e si rafforza invece in Libia. Allora, alla luce di questo, se avete visto sui giornali di oggi la novità di ieri, anzi una delle tre novità di ieri, quella relativa al fatto che l'Italia autorizza l'utilizzo della base di Sigonella, vedremo insomma per quali mezzi aerei militari statunitensi per intervenire in Libia. C'è stato un primo bombardamento americano serio il 19 febbraio scorso, e la notizia di ieri, una delle tre notizie di ieri, è stata che autorizziamo l'utilizzo di Sigonella. Allora la mia domanda che vi faccio è: secondo voi è la cosa giusta da fare un nuovo intervento militare dall'alto in Libia alla luce di quello che è successo nel 2011? Può essere che voi mi diciate sì, perché bisogna colpire ISIS anche lì. Può essere che voi mi diciate sì, ma è meglio che lo facciano solo gli americani, oppure no, è sbagliato comunque, bisognerebbe fare altro, eccetera, eccetera. Però la mia domanda secca è questa: siete favorevoli? Anzi, vorreste magari che si impegnasse anche l'Italia in questo tipo di azioni militari? Chiamateci e diteci la vostra. Perché dicevo che ci sono state tre novità, non solo una, ieri su questo argomento? Perché la prima è quella che vi ho detto e vi ripeto, cioè c'è stato un annuncio, è stato prima anticipato da lo Wall Street Journal. Il Wall Street Journal ha detto raggiunta l'intesa tra il Pentagono e il governo italiano, e quindi l'Italia dice sì all'America per l'utilizzo della base di Sigonella. E questa è stata la prima notizia. La seconda era di poco precedente, cioè alla fine della giornata precedente, cioè questa accordo per una tregua in Siria sottoscritta da russi e americani da sabato prossimo, con la telefonata tra Obama e Putin. Tutto da valutare vista la complessità delle fazioni che si affrontano sul terreno siriano, come sapete. La terza era poi successiva, cioè il fatto che il presidente siriano, quello tra virgolette legittimo, diciamo così, cioè Assad, ha convocato delle elezioni per il 13 aprile. È una notizia di fronte alla quale uno non sa come prenderla rispetto alle condizioni della Siria, però ha convocato elezioni per il 13 aprile. Ma la cosa che ci riguarda direttamente è questa relativa all'autorizzazione del governo italiano all'utilizzo della base di Sigonella. Allora, per l'azione del 19 febbraio scorso americana di bombardamento non sono state utilizzate le basi italiane, e alla luce di quello che adesso andiamo a spiegarvi si capisce anche che probabilmente non sono state autorizzate le basi italiane, bensì i velivoli americani che hanno colpito la Libia il 19 si sono levati in volo da una base nel Regno Unito a Lakenheath, quindi sono stati cacciabombardieri F-15 che hanno dovuto andare e tornare da quella distanza, quindi con rifornimenti in volo, ma non approfittando della base di Sigonella, che è a poche centinaia di miglia dagli obiettivi in Libia. Invece quello che è intervenuto adesso è un accordo tra il governo italiano e gli Stati Uniti, poiché secondo me la cosa più facile del mondo in Italia, non so come la pensiate voi, adesso sentiamo gli esperti, è che alla prima azione militare pesante scoppino le polemiche, sarebbe il caso di capire bene come funziona questo accordo tra Roma e gli Stati Uniti. E in particolare, a quali condizioni noi diamo l'autorizzazione? Il governo italiano dice di volta in volta alle singole operazioni. Si tratta di capirlo, perché secondo me poi è molto rischioso, altrimenti, che il nostro paese venga attanagliato da una nuova polemica politica interna tra maggioranza, opposizione, opinione pubblica, giornali. Forse è meglio capire prima come può funzionare questo intervento americano dal territorio italiano, ma su una base che, quella di Sigonella, è in realtà americana. Allora, intanto tentiamo di capire un po' tutte queste cose prima di estendere poi la riflessione a cosa sta succedendo politicamente. Quindi, per spiegarci che tipo di accordo può essere, che status ha la base di Sigonella, che tipo di velivoli si muovono di là, che cosa davvero sarà sottoposto all'autorizzazione e alla conoscenza delle autorità italiane ogni qualvolta si leveranno velivoli americani per colpire in Libia, e quindi quale sarà il nostro grado di corresponsabilità di fronte poi a quello che succede. Abbiamo con noi il direttore della rivista Italiana Difesa, Pietro Batacchi, a cui spesso ricorriamo quando si tratta di capire questioni che stanno a cavallo tra le questioni di difesa e sicurezza e quelle della nostra politica estera. Grazie Pietro di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio a te, Oscar. Allora, ricordiamo, questa base di Sigonella ha uno status un po' particolare, perché non è una base NATO. Assolutamente no, è una base americana, nella fattispecie è una base della Marina americana, dell'USNEVI, è una base la cui operatività è gestita nell'ambito di accordi tra Italia e Stati Uniti bilaterali che risalgono addirittura agli anni 50. Nel 2006 tutto è stato consolidato in un technical agreement, un accordo tecnico militare che disciplina l'impiego della base, tutte le varie fattispecie e che soprattutto chiede agli Stati Uniti, per qualunque missione che parte dalla base di Sigonella, passare per le autorità italiane per ogni eventuale autorizzazione. Per cui la base di Sigonella, che per 30 anni era stata sostanzialmente impiegata come hub logistico per la Marina americana, dopo la guerra fredda, dopo la fine della guerra fredda e sempre più dopo l'11 settembre, è diventata un hub per le operazioni di ricognizione, sorveglianza a carattere sempre più interforze in tutto lo scenario mediterraneo. Però in questo ambito appunto si richiede che quando parte una missione gli americani debbano passare per le autorità italiane chiedendo la relativa autorizzazione, che viene data volta per volta a seconda dei casi. Quindi non vedo grandi novità se non appunto di una rinegoziazione sull'aspetto che dalla base di Sigonella adesso, quantomeno da un mese, probabilmente anche da qualche settimana in più, dalla base di Sigonella partono anche missioni di UAV armati. Ecco. Allora, questi UAV, che sono quindi velivoli privi di pilotaggio umano, se non a distanza, secondo gli accordi tecnici che ci sono noti, che cosa significherà in concreto? Che prima che partano la struttura gerarchica militare italiana e quindi poi per corrispettivo il governo verrà informata dell'obiettivo della missione, di come si intende colpirlo, usando che armi, precisamente indicando dov'è o dove si sospetta che sia, cioè tutti i dettagli della missione saranno sottoposti all'autorizzazione preventiva delle autorità italiane? È una bella domanda che alla quale non penso di poter rispondere, nel senso che ci sono una serie di dettagli che evidentemente sono classificati e restano nell'ambito di questo accordo che c'è tra gli Stati Uniti e l'Italia, per cui non ho idea. La cosa che posso dire senz'altro è che non pensiamo che questi UAV, questi aerei a pilotaggio remoto, partano su scramble come fa un caccia qualsiasi per andare a proteggere un gruppo di forze speciali sul terreno in Libia, perché i tempi di trasferimento di un UAV dalla base di Sigonella in Libia sono attualmente a forze speciali americane che stanno in Libia e possono intervenire all'occorrenza se queste forze speciali ne richiedono supporto, oppure se queste forze speciali gli indicano un bersaglio da colpire e da neutralizzare. Insomma, un UAV non è un aereo da supporto. Da supporto fuoco a terra, cioè non c'è dubbio. E però, mi pare di capire, dalla risposta di Pietro Battacchi, esiste un'area grigia che non ci è nota di come funzionano davvero questi accordi. E naturalmente questo mi inquieta, perché poi significa garanzia di polemiche sicure in Italia. Allora, il secondo ospite, cioè il professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, che scrive anche per il Sole 24 Ore, Vittorio Emanuele Parsi, lo ringrazio di essere con noi e riparto da questa stessa domanda anche a lui. Siccome, come è ovvio, questi tipi di accordi di cooperazione militare per l'utilizzo della base aeronavale americana sul territorio italiano non ci consentono di capire quali sono i dettagli veri della condivisione degli obiettivi, delle strategie, delle tattiche di ingaggio e così via, non è un modo comunque, come se fossimo operativamente impegnati nelle missioni che colpiranno anche gli obiettivi a terra, pur noi limitandoci, professor Parsi, solo a dire ma utilizzate la base ma non sono i nostri velivoli a colpire? Che differenza fa dal punto di vista sostanziale rispetto agli obiettivi colpiti dell'ISIS? Nessuna rispetto a quelli che ricevono, diciamo così, le bombe o quant'altro, nel senso che non faranno certo la differenza se il vettore parte da una base italiana ed è anche italiano, oppure un vettore americano o inglese, esatto, che parte dal territorio italiano. Purtroppo qui salta fuori tutto, come al solito, la reticenza di tutti i governi, in realtà, della Repubblica, ma questo non fa eccezione per alcuni aspetti. Diciamo che lo fa con maggior nonchalance rispetto al dire all'opinione pubblica qual è la situazione, cosa si intende fare e in che misura stiamo facendo la guerra all'ISIS. L'Italia ha una posizione che ricorda quella della non belligeranza di Mussolini, sì, durante l'inizio della seconda guerra mondiale, cioè siamo alleati contro l'ISIS però in una guerra, però non spariamo un colpo, che è un modo singolare di fare la guerra. Posso dire che sono rimasto un po' colpito, professor Parsi, non so lei, dal fatto che anche i media italiani oggi hanno dato la notizia anticipata ieri del Wall Street Journal e hanno tutti pagine in cui spiegano come funziona o può funzionare, in realtà spiegano molto poco di come può funzionare questa cosa di Sigonella, ma in realtà non è che ci sia stato qualcuno che abbia puntato il dito chiedendo un po' di chiarezza in più da parte del governo italiano. Temo che altri governi avrebbero avuto, insomma, per così dire, degli altolà diversi dai media, mi sbaglio? Sì. Ma a parte noi e il Fatto Quotidiano, non mi pare che la grande stampa in Esattamente. Italia sia particolarmente famosa per essere, diciamo, un cane da guardia di nessun governo. No, sembra che le lezioni non le impariamo mai, solo dopo tutti scoprono che c'è un problema. Perché, perché hanno in mente altre lezioni certi giornali, cioè hanno in mente altre, diciamo, altri incentivi che non vigilare sull'operato dell'esecutivo, qualunque esso sia. Purtroppo qui il problema è sempre quello, cioè il nostro governo fa grande mostra di essere perfettamente allineato con gli americani quando sostiene, appunto, giustamente per altri versi, è chiaro, la rilevanza di una manovra di carattere politico che accompagni e sostanzi quella militare, che soprattutto rappresenta il follow up di quella militare. Dopo però, quando diciamo siamo d'accordo con gli americani, come la mettiamo, appunto, rispetto all'utilizzo dei droni o di qualunque altro vettore parte dal territorio italiano? È ovvio che gli americani, se noi siamo d'accordo sull'impianto generale, su tutto, l'ultima cosa che farà un comando militare è comunicare ad altri preventivamente questo o quest'altro, anche l'obiettivo, anche perché l'obiettivo può essere cambiato in corso d'opera e quant'altro. Per cui lì salta fuori che il non avere coraggio di convocare l'opinione pubblica, per così dire, rispetto alla gravità di una crisi e quindi la necessità di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, compresi quelli militari, poi lascia la coperta corta e quando poi si verifica l'impiego o c'è, diciamo così, sono le conseguenze dell'impiego, cioè i morti, cadremo dal pero e troveremo a dover rincorrere a quel punto quella che sarà una frangia dell'opinione pubblica iperpacifista, esatto, o una frangia polemica come quelli che l'altro giorno hanno dato l'assalto alla stanza, all'aula di lezione di amico Pane Bianco. E anche stamattina lo hanno rifatto puntualmente. L'hanno rifatto. È sempre incinta, i cretini fanno sempre le stesse cose, però. Esattamente, hanno interrotto la lezione anche oggi. E quello che ha detto il professor Parsi, secondo me, è una cosa che voi a casa dovreste appuntarvi. Non ci auguriamo che accada, però con queste premesse è pressoché inevitabile che accada, perché, ripeto, dare l'autorizzazione alle basi significa che noi facciamo parte integrante di questo tipo di missione. Lasciamo perdere come la penso io o meno, dico solo che di fronte a questo, però, far finta che non sia questa la decisione, secondo me è un errore. E aggiungo la domanda a entrambi, la cui risposta però dopo un minuto di interruzione sul traffico. Poiché alcuni scrivono o ritengono che ci siano già forze speciali italiane sul campo in Libia, cioè stivali sul terreno, capisco, ci vuole la riservatezza per le forze speciali, ma se è così nella testa dei nostri due osservatori, non è anche quello un segno che noi in realtà siamo già operativi in un dispositivo militare in Libia e dovremmo quindi assumerne le conseguenze esplicite di tutto questo? La risposta di entrambi, ricominciando da Battacchi e dal professor Parsi, tra un minuto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... La versione di Oscar. Molti di voi mandano messaggi, cari ascoltatori, dicendo: ma noi non siamo in guerra contro l'ISIS in Libia. Che chi mai ha detto che siamo in guerra? Nessuno l'ha dichiarata, non c'è niente di tutto questo. Dice per esempio Ulisse, ma ce n'è un mucchio di questo tipo. Ragazzi, non so cosa dirvi, però se autorizziamo l'utilizzo delle basi stiamo tentando di riflettere su sia davvero come dite voi oppure se non sia invece vero il contrario. Allora, io faccio una domanda a Pietro Battacchi e poi la rifarò anche a Vittorio Emanuele Parsi. Quello che scrivono alcuni, cioè che ci sono già nostre forze speciali italiane in azione sul terreno in Libia, Battacchi, secondo lei ha un fondamento oppure no? Ma guarda, la cosa che posso dire è che ormai da anni non facciamo più guerre, non dichiariamo più guerre, facciamo delle cose che sono guerre, però non si chiamano così. Ora poi il professor Parsi, meglio di me, dopo potrà discorrere di questa cosa, però in sostanza la guerra è stata, pur essendo una realtà tremendamente presente nella nostra epoca, è stata espulsa dal suo orizzonte intellettuale. Fatta questa premessa, siamo in guerra? Non so, sicuramente i nostri servizi stanno facendo una partita in Libia da tempo, soprattutto per guadagnare il consenso di alcune milizie, di alcune tribù a eventuali piani di stabilizzazione della Libia. Io non so se abbiamo anche forze speciali, la difesa l'ha sempre smentita, quindi mi attengo a quanto la difesa ha detto. Abbiamo l'operazione Mare Nostrum, che prevede la protezione delle installazioni offshore petrolifere energetiche dell'ENI, quindi è una missione anche questa con un alto contenuto di rischio, perché queste piattaforme offshore possono essere attaccate da barchini eventualmente dell'ISIS, per esempio. Per cui non siamo in guerra? Probabilmente no, siamo in una cosa molto intermedia che si colloca appunto a cavallo tra il conflitto, tra la stabilizzazione, il monitoraggio e così via. I nostri Predator credo che facciano operazioni di sorveglianza sulla Libia da tempo, per cui, ripeto, abbiamo in corso tutta una serie di attività. Di attività, per così dire, non meglio definite o definibili nella cornice del diritto internazionale attuale. Lei che pensa, professor Parsi? Ci abbiamo uomini delle forze speciali sul campo oppure no? A quanto mi risulta, no, in questo momento. Però gli ascoltatori, cioè, il Premier ha dichiarato che siamo in guerra contro l'ISIS, l'ha dichiarato alla Casa Bianca, l'ha dichiarato a Parigi, l'ha dichiarato anche in Italia, per cui quando diciamo siamo in guerra contro l'ISIS ci rifacciamo alla dichiarazione del Primo Ministro. Penso che sia sufficiente per dichiarare il fatto che noi siamo in guerra contro l'ISIS e abbiamo sostenuto sempre che parteciperemo appunto a questa guerra contro l'ISIS, specificamente perché non parteciperemo più di tanto in Siria e Iraq, per cui non è che Giannino o Parsi hanno stabilito che siamo in guerra contro l'ISIS, esatto. È il Premier che ogni peso spinto dice facciamo la nostra parte nella guerra contro l'ISIS, quindi se è così siamo in guerra. Non siamo in una guerra di trattamento, mi sembra abbastanza evidente, perché non si dichiara lo stato di guerra a un'organizzazione terroristica. Sì. Vi faccio presente che nessuno dei conflitti che è stato combattuto non da noi, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Inghilterra, da tutta la comunità internazionale, dopo la fine della guerra fredda, non c'è mai stato uno stato di guerra nei confronti di nessuno. Non ci fu neanche uno stato di guerra nei confronti dell'Iraq nel 91, quando le Nazioni Unite utilizzarono la comunità internazionale a usare la forza per buttare fuori le forze da Kuwait. Da Kuwait. E quindi questa è la condizione. Mi ricordo l'ultima cosa che diceva lei, Giannino. Noi sul fatto che se facciamo partire i droni, la Sigonella partecipava a un'operazione militare offensiva. Quando ci fu la guerra in Kosovo, il governo D'Alema rivendicò la partecipazione italiana a quella campagna proprio sulla scorta di aver fornito le basi da cui decollavano gli aerei e di aver partecipato a operazioni formalmente di pura ricognizione. Quindi se vale in quel caso, vale anche in questo caso, non è che possiamo di volta in volta interpretare come ci fa più comodo. Esattamente, il precedente questo dice. Sentiamo un po' gli ascoltatori come la pensano, cominciamo con Lorenzo da Padova. Lorenzo, prego. Allora, intanto se dicono tutto gli esperti, ci fate partecipare come belle statuine, no? Dai, fate gli scherzi. Sì. Allora, due cose sostanziali. Se abbiamo degli interessi, e ci sono dei forti interessi in Libia, vale a dire Eni, impianti, eccetera, eccetera, è impossibile che non ci siano forze speciali. Se fosse così, se non ci fossero forze speciali che difendono i nostri impianti, che non danno un supporto e che non garantiscono un minimo di sicurezza, saremmo degli asini. Lorenzo, insomma, ufficialmente la difesa dice di no, perché le aziende hanno un proprio dispositivo, naturalmente con dei private contractors, per la difesa degli impianti di sicurezza. Questa è quella la tesi ufficiale, Lorenzo, quindi noi non possiamo che aderire a quella, ripetere quella. Poi diceva Lorenzo? L'ENI non è un'impresa qualsiasi. L'ENI fa la politica estera italiana, quindi anche se usa dei contractors, anche se ha degli scontri che non sono fatti con i militari italiani, ma sono contratti a pagamento dell'ENI, e ci sono attentati o ci no, ma io non nego il fatto, è ovvio che questa è la presenza storica e sono gli interessi rilevanti che giustificarono anche perché poi i francesi britannici nel 2011 eccetera eccetera eccetera, quindi lei dice ci siamo, non facciamo finta che non ci siamo. Silvio da Lucca come la pensa? Buonasera dottor Giannino, grazie. Giannino e basta, grazie a lei, prego. Dunque, io sono d'accordo con gli interlocutori che mi hanno preceduto. Secondo me però l'utilizzo della base di Sigonella avrebbe dovuto avere un percorso diverso, la discussione e l'autorizzazione del Parlamento, poi, anche se poi il risultato sarebbe stato il medesimo, perché secondo me si cerca di far vedere che effettivamente non c'è una guerra, ma in realtà fornendo le basi per i droni, che sono armati come si sa la micidiale precisione di questi dispositivi, quindi siamo effettivamente in guerra. Ora poi bisognerà vedere poi le bombe dove cascano. Però lei dice è così, in realtà è così, perché ripeto, soprattutto poi ha ragione il professor Parsi a richiamare che Renzi lo dice, poi ogni volta dice no, però noi siamo in un modo che no, la cultura di qua, però se si fa parte di un dispositivo, ripeto, sempre distinguendo la Libia rispetto a Siria e Iraq, questo bisogna dare atto, Renzi lo ha sempre fatto, però io credo anche che ci voglia un po' più di chiarezza prima di annunciare questa cosa di Sigonella. Mi sbaglierò, ma esclusivamente perché poi altrimenti dopo esplode la polemica politica. È pressoché certo, questo ci dice il precedente. Speriamo che non avvenga, ma io temo di sì. Fausto, da Piacenza, come la pensa? Ma io ritengo che questo sia un atto di guerra. Ma mi chiedo, sono state prese in considerazione anche le opzioni dell'ISIS di ritorsione verso l'Italia? Cioè, non possiamo aspettarci in qualche modo una nuova ondata di attentati che questa volta interessino l'Italia? Beh, santa domanda, la risposta dovrebbe essere, per motivi di evidente logica, sì alla sua domanda. Mi piacerebbe che qualcuno del governo ci dicesse però in che termini, però immagino, speriamo, però ecco perché serve riflettere, ecco, in queste ore. Ciro da Roma, come la pensa Ciro? Buonasera, sì. Credo che l'attentato in Italia sarà l'ultimo livello dello scontro, proprio a livello mondiale, questo nessuno lo vuole dire, io in questo momento lo escluderei, ma comunque sono intervenuto per dire che finalmente l'Italia comincia a fare il suo dovere, anche perché tra poco, al di là di queste panacee, ci si renderà conto che sarà più o meno indispensabile un intervento di terra. Ecco, allora su questo naturalmente le prospettive di un accordo nazionale sono ancora lontanissime su un governo di concordia nazionale, e forse anche per questo che gli Stati Uniti hanno accelerato. Io ringrazio i nostri due ospiti, Piero Battacchi e Vittorio Emanuele Parsi, vedremo cosa succede nei prossimi giorni, però rendetevi conto, questa è la novità che ha fatto scattare in avanti tutta una serie di cose che vedremo nei prossimi giorni e settimane. Continuate con Radio 24, appuntamento all'8:15 di mattina con me, Alessandro Milan, in attenzione.